来来来来来来来来来来来来来来。Fuori il mondo scorre, mescola i destini, alcuni per fortuna li mette più vicini. Traffico e la scuola, il bar della mattina, vite in doppia fila, vite sopra una panchina. Qualcuno in motorino, un cane tira forte, tu che ci sei sempre nelle mie giornate storte. Vorrei ripararti dai veleni della gente e aver cura di te, poi vorrei sollevarti da quest'aria un po' pesante. Spacca il cielo con me, lai lai lai lai lai lai lai. Davanti alla vetrina tiravo a indovinare cosa vuoi da bere o il tuo segno zodiacale. Dicevi cose folli, eri mappa da scoprire. Non abbiamo perso tempo e ce ne siamo andati al mare. Poi di corsa alla fontana, come fanno due ragazzi a guarire le paure, qua ci pensano gli abbracci. Vorrei ripararti dai veleni della gente e aver cura di te, poi vorrei sollevarti da quest'aria un po' pesante. Spacca il cielo con me, perché quando ti guardo io vedo la luce dei giorni migliori. Perché quando ti penso io penso che il meglio non sia poi distante da noi. Lai lai. Quest'aria un po' pesante, spacca il cielo con me.